buonasera. Avanti, Franco da parte mia. Scusa, non t'ho copiato, sei sotto il corredo. Franco, a Sassari. Ciao Franco, buonasera. SP25, Lavino. Oh, ciao Gabino. Più o meno che zona è? Tra la persona, il solare. Ok, un po' negativo per me quella zona, No, mi sta arrivando bene, mi sta arrivando bene. Fa un passaggio. Vuoi mettere prova? Perché lei no, non ho l'antenna sul tetto, per quello è... Quella parte mi è cieca. 9.15 radio 5, dai. Però io ho molto QRM qua. Io sento un po' di propagazione, ma a livello di segnale di Santiago 1, neanche forse. Sento un po' di propagazione, ma questo smitter è molto avaro. No, io qua già ne ho. Ho segnale 7-8 qua di propagazione. Vuol dire che c'è zona buona, zona aperta, l'antenna sul tetto sicuramente. Vabbè, sì. Impianto di antenna DOC, tutto sotto traliccio e antenna Grazioli. Una Grazioli con traliccio da 9 metri sul tetto, in pratica arriva a 9, quasi 15 metri dal tetto a terra, dai. E quindi l'antenna nuova, la Grazioli, c'è qualche anno, un paio d'anni, non so, 2-3 anni. No, io sto usando una canna da pesca, dai, un'antenna autocostruita che sulla finestra, abito al primo piano, la punta dell'antenna arriva al tetto, diciamo, alla grondaia. È positivo, com'è la radio, è compressa questa qua? No, va bene, sicuramente c'è una voce, come si dice, una voce grossa, profonda, la popolazione è quella, dai. Sì. Niente. Il macchinino come lo trovi? È troppo alto oppure cosa? Sto parlando a voce bassa io anche. Adesso questa è la mia voce originale, vedi un po' se cambia qualcosa. Questa è, diciamo, la mia parlata normale come quando parlo con una persona in verticale. No, va benissimo. L'unica cosa è che ti porti appresso un po' di propagazione, quindi anche se sono bassi ti riporti dietro. Però io non ho nessun problema a ascoltarti, la radio è buona. È positivo. Niente. È un po' un casotto. Va bene, no, stavo facendo delle prove qua e ho finito prima di lavorare, quindi mi sono dedicato un po' alla radio e ciccia. Adesso sono entrato. Cosa stai usando tu? Un diciamo tipo super tardi. Questo è un vecchio samurai. Sì, ce l'avevo anch'io il samurai. Una bella radio, dove c'è qua la cromata? Sì, capa, forse qualcuno vuole entrare. Sì, quella cromata. Oh, sia un Galaxy che un. Ma sia un samurai che un Super Galaxy. Quello esce con 20 watt, questo con 10, ma l'ho abbassato a 4 watt circa, dai. Ma puoi passare in FM? Se esce bene, prova. Andiamo in FM, dai. Calimonti. Buongiorno adesso e buon pranzo se non l'avete fatto. E a parte, sì, ciao lì. No, anche un altro è entrato. Ecco. Avanti. La California da questa. Me lo daresti un rapporto di segnale? 9.30, la radio ultima. radio va bene, sì. Sì, perfetta, senza fronzoli, da salotto proprio. Sì, dai, grazie. Chi c'è in questa frequenza? E chi c'è? Forse Gavino e Alessio. Antonello, buongiorno. Buongiorno, Franco, California. Per il positivo, come mi ascolti a quelle perre, Antonello? 9:10. Di positivo, quindi va bene, dai. A voi, a parte gli americani che c'ho sotto, ma ci arrivi bene, ti sento tranquillo. Ma non ne ho vitamine, sto uscendo liscio. No, americani che di propagazione lì sotto ci sono. E quelli li sento anche io, c'è propagazione infatti sotto, sì sì. Ok, vi ascolto tutti bene comunque, dai. Dai, riprendete questo sistema, alcune cosette qua, dalla mia stazione, che c'è un po' di, diciamo così, un po' di già e botto, di casino. Se passate sul 5, tranquilla. No, io non ho problemi, non lo so, vedete, ditemi voi. Lo siete a Gavino? Fa un po'. E a voglia. Ciao Antone, vabbè Antone, come va? Ciao Gavì, ben sentito, saluto lì. E allora Antone? Ascolta Antone, ma non conosci nessuno che ha qualche lineare, qualche lineare per CB? Dipende anche di dare voi. C'è uno, ne uno da 300 se ti interessa. Uno da 300? 300. Che lineare? È un CT International. Quanto toglie? Ho capito. Adesso quanti vate toglie? Ma guarda, non ne dà proprio 300, ne darà 190 qualcosa. Poi non vi copiano, io qua c'ho questi americani che mi stanno arrivando a 9,20, non vi copio ragazzi. Vabbè, se voi vuoi un lineare grosso, non so cosa costa, Ci vuole BV 2000 euro con la transistor. Anzi non 2000 euro, stavo sbagliando io, 2002 a transistor ci vuole. Che monta il 500, il BV 507, se non mi ricordo male, aspetta, quello che c'ho io, il B550P monta dentro, 4 finali, quindi sono 120 watt ogni finale, fatti i conti. Antonello, passa sul 5 se mi copi, perché qua c'ho questi americani che mi stanno arrivando a 9,20. Di passare sul 5. Ehi, vabbè. Oh ragazzi, attrezzatevi che qua gli americani vi stanno passando. Gavino passa canale 10. Antone, passa al canale 5. Aiuto al canale 5, Gavino. Ehi, aspetta che sono... Allora Gavino, vai al canale 10. Ehi, vai su canale 5. 27.05. 27.05. Non mi ricordo se è 5.15 la verità. Comunque canale 5. Guarda che c'è, siamo tutti là. Thank you. Eugenio? Il 6. Ma io non ti sento comunque, eh? Che cosa? Ma arrivi bassissimo a livello 3M. Faccio fatica a tirarti fuori, buonasera comunque, Mario, porta terrestre. Ciao binario, lo so, ma io sono in zona negativa del parlatore. Guarda adesso, 1-2-3 in prova di modulazione. Ma capo QRM, non riesco a tirarti fuori, mi dispiace, mannaggia la miseria. È un peccato perché mi serviva un controllo, ma va bene, non c'è problema, eh. Non, comunque non ti sento, proprio a livello QRM, proprio... pazzesco. Non so quello che dici, dai, pazienza, vai. Dai, veramente non ti sento, comunque chiunque tu sia, la buona serata, eh. Non riesco a tirarti fuori, ho sentito prima il fischio, ma proprio a livello QRM. Veramente, veramente. Ecco, io sento che fischi, però non modulazione negativa. Caspacquaccio, dammi la frequenza che adesso non ce l'ho. Sì, 27, blu, che aspetta, no, non ce la possiamo fare. Mettici una portantina, va. Limoni e aranci. Hai fatto bene. E allora? se non voglio mangiare l'arancia così, mi faccio lo esperimento e buono. Via. Oggi altro, voglio farmi carbofiori bagnati nell'uovo, fare grattugiate fritti. Buono, buono. Oggi non ho fatto la polenta con la salsiccia. Buono, potevi chiamarmi? Con il sugo con la salsiccia. Bravo Ciga, non ti si nutre nessuno, da voi c'è il bagnato i cellulari. Troiaia, andava. Io la canna sopra a capo, senti io, sto andando. Meglio. Allora com'era Pavola? Gli ha rubrito già. E tu mi dico maschio o femmina? Maschio, maschio. Andrà bene. Vedo il maschio che continua il cognome, va avanti. Come dicono. Meglio. Ma la parte una nuova moda va nel burro, so per niente pure il cognome della mamma, so punente, io non sono d'accordo. No, neanche io, ultimivano il cognome mio, buco. Io ho maschio e una femmina, che ha Dio, e c'ha altri due cognomi mio. Cazzo, la generazione la doglia a me. E allora? Che è che la buca lo sei, bu? Io. Ma la parte di buone nere, molte famiglie li mettono tutte e due, così ne esce un pasticcio quando deve ne vado come te. E allora se il caso tu cognome, no, cazzo lo finisco, carità. E voi ioi. Se già me la rompendo io, quando per la prima cosa di tutti che l'ha legittimato, mi ha capigliolo, l'ha detto. Oh guascia. Quando ho cazzo a posto il gatto, il nome di lei, il cognome suo e il cognome mio. E allora il gatto si prende. E noi avevamo un collega di lavoro che aveva due cognomi. Però aspetta, c'aveva due cognomi, non uno della moglie, della mamma e uno del padre, no? Tutti e due del padre, perché poi il padre era morto e la mamma si è risposata e ci ha preso l'altro cognome, due cognomi, che è brutto così però. Vabbè, ma uno è legittimato, cioè un conto è legittimato, un conto è. A me mi si gira un po' caretto di tipi lei, Sì, ma tu, mi dico visto, c'è il tuo cognome, il tuo cognome, tuo padre è morto, tua madre si è sposata. A chi ti ha invitato il nostro cognome della sua mamma, che ha presentato il cognome? No, non l'ho voluto, mi rimango io. Cazzo che schifo, no? Nesce un pasticcio, nesce. Allora, vabbè. Oh, io sono tanto di mio. No, io sono un bel... non sono d'accordo. Anch'io. Ma c'è il cognome e poi dice, uno ti chiede, domani il cognome e lo glielo dice, poi io c'ho il cognome del padre ed è così. Ma quanto sono il segnale? È un pochettino, come mai? Io ho passato un po' di potenza. E se c'è sono 20, dove ero per 20. Però adesso è ben buono, dai. Cappa, per prima stavo spingendo, adesso non è necessario. Necessario, se mi sento lo stesso. Ma forse già non è entrato quello che sta facendo il pigiolino. Sicuramente. Andrà bene, ci voglio fare una cosa e non mi... Dunque. Vediamo un po'. Messaggio questo con un avvento. Non voglio giocare a Giannica. No. Oh, l'unico maschio è mia, lo sai. Nessun ritardo al padre di lei. Lì c'ha due nipotine, tutte donne. L'unico maschio della famiglia è nostro. Allora, vabbè, la razza continua, non comasci. Io avevo uno che travagliava con lui quando era fidanzato. Cinque donne aveva, cinque femmine ha fatto. Si chiede un maschio e già arriva adesso il prossimo, tu. L'ha fatto zicco e la moglie ha detto, beh, alla me c'era un pizzo. Se vuoi un maschio te lo zicco con un'altra femmina. Vabbè, sono capito della pizza, invece io, mia sorella è la maggior femmina. Ecco, per lo stesso, prima il maschio poi la femmina tutto. Lui vacca, lui andrà bene. Vabbè, mio figlio c'ha già 43 anni. Lui già, è grande. La femmina da 37, ha fatto lo conto. Vacca di 7 anni di differenza con l'altro. Un anno più piccolo di me, la femmina. vabbè, io ci mi piacenti, andate da Razzi, siamo venuti una settimana sta volando, il mese sta volando, pari la clinica era andare, già siamo quasi a fine gennaio. Non c'è mai vicente, ma comunque è meglio vicciata. Meglio sì. Io non so come vieno, vedi pure in Roma, cazzo, non fragino, mi metto tra due alimentatori che avevo preso dai cinesi e di me il buon gruppo, no, per lungo. Non posso fare anche buon per rimane ancora, no, no, no, no. No, è un laggiù, un nome è buono. No, questo è basta. Non è un altro, no, non fa molto. Io ho uno, due, tre, quattro. Io ho quattro, un ricevitore, due ricevitori e PMR. Uno portatile e l'altro fisso. Lui è la Jaudi da fare il tempo. Ma c'è la famiglia. Ma io ho due o tre canali, che uno si chiama CB800, là c'è un Alam 68S. Ma voglia? Vabbè. Ah sì, che faccio una chiamata a Franco per se entra. Un attimo. Tutti dormiti? Allora ce le faccio. Pure io ho un coincidente. Sono morato in un fosso. Però mi ha avuto la condanna animale, cazzo, a vedere cosa mi dite, non mi ha ancora risposto. Cazzo gli piglio una mocca, va? E ne ricanto quattro a chiesto. Ma non mi dite quello che c'è solo? No, c'ho i fili dentro la mano. Ma adesso mi ritorno. Che è questa? Ui, ma che è che te le cavare? No, adesso non ce l'ho, c'è un cerotto fatto. E fisioterapia fatto le hai? 30 l'ho fatto. Io l'ho fatto a pronti, sono ben brave, la verità, infatti io cammino meglio adesso, con un mese non camminavo nulla. Ma la verità, ragazzi. Oh, già, ho tutta la zona da visto, era un bel po', tutta l'agenzia che si può fare. Bambini che figlio la moto e anche a Matteo, e il comando, ma anche i bambini. Adesso ho il telefono, Matteo. Venga. Non era dormito, era in giro di macchina. Ma non si è. Allora, quando c'è il telefono, dove è? Tu l'hai chiamato, sì. Vabbè. Cazzo, per me tu sei illuminato, dove io spengo il bottoncino e spengo tutto. E così è tutto illuminato, tutto a LED. E faccio un medico se ti faccio un macchino e se devo fare qualche cosa ci vedo tutto. Però io ho due piani, me ne devo mettere un'altra. Ma non so, va a attaccarla. Boh. Cosa tu? Che antenna c'hai? Io ho l'antenna, quella che ho pagato una cazzata, 7 euro. Come ce l'ha Franco California? A quale disco? Come si chiama? Molto me la metto più. Ah, sì, sì, mi ha parlato bene, guarda. Funziona bene. Funziona bene. Ehi, allora con il curraccio come faccio a irradiare, che so, minoriti, mette massicci in alluminio, sarei 30 centimetri. Allora che non ci posso fare i curracci. Vabbè, già esce bene, ma c'è un bel po', Ehi, ma che Franco ce l'hai fatta esce bene, Franco? Infatti, ma chi ce l'ha sbagliato, 60 euro, ma carità, è buona. La lampada di 50 anni non sarà mezz'ora, sarà comunque buona, cazzo, è alta. Tu pensa che io non copiavo portatore su Alghero, Alghero manco parlante. Adesso Alghero copio Santiago 4, cosa che per me era tabù Alghero. Fuori tante gare c'è ti dillo. Non dire che è buono. Andò bene, Gianni ci sei, doppio rum, anche non c'è Gianni. Funge da tipo direttiva, capito? Se metti invece una bomba direzionale è meglio. Vabbè, direttiva, c'è anche l'obbligo centrale, però dico se la metti sul tetto prende tutti i lati, non va bene, magari da una parte un pochettino di meno, qualcosa, però a fine già funziona, meglio di niente per adesso. Poi vabbè, poi fidato la metti un'antenna buona, un direzionale. Almeno se spari Santiago dove vita ma parte le spari anche a destra, a sinistra, su e giù, capito? Mentre con la bubera, no? Adesso mi devo accontentare di questa. Comunque già ti sento con questa pure, dai, già va bene. Manuele sta portando con l'antenna dentro eppure lo sentiamo. Ok, tu sì. Ha detto l'antenna ha attaccato un frigorifero, ragazzi. Ma perché non se la mette una bubera? Non le vuole mettere, neanche un dipolo, no, se no poi dice cosa, mette l'antenna, ecco qua. Adesso va bene. Capito, lui ha paura che gli dicono cosa, ecco perché non le mette. Allora, c'è la bubera, mica se n'accorgono. No, già se n'accorgono, sì, assolutamente, non è l'uomo lì. Ah, ma c'è il tu c'ha paura. No, non ho paura di niente, e poi lo sai, una bufa non si sa, e mi viene frega. Ma mette papà, che cazzo mi dice niente. Ma uno vuole avere parole con il ciuvo, dove abita lui, aspetta, l'hai detto, meglio niente. Sì, non sa. A tardi l'antenna della televisione. Puro. No, è un filo che ho messo per la radio, bubacca. Lo sai tu. Allora. Io l'ho collegato quando abitavo in via dei Corsi, io l'ho attaccato la TV, funzionava, quando me lo chiedevo, ma non mi sono vedi che ha attaccato la TV, ma lo vedi che se ne riuscì a fare bene, si piace un grande la riparazione. Adesso quando abitavi l'altra parte già uscivo abbastanza le parti. Purtroppo ho visto dove abiti e quindi ho visto l'antenna. Poi sul tetto già va meglio comunque da di adesso. Io dico per bene che siamo in Tiliadari, siamo vicino. Dimmi Manuè, sono in saturazione. Aspetta. E adesso 1, 2, 3. Eppure so. Il volume ho alzato leggermente del Mighty Gaming. Perché non ti metti l'antenna fuori? Un dipolo? Quando 20 ore, hai provato una volta, infatti non è che uscirà a 6 metri. Comunque, se questo c'era il frigorifero e lì siete con opere, sono sicuro se la metti la lavatrice si più forte. Ehi, attaccate un frigorifero. Ma quando sarà la figlia me voi? Ma voi sono l'altro là, un quadro che sono tanto tranquillo, che non avuto. E antenna tu, quanto ti arriva a Manuele? A me mi arriva 9. Non ce l'ho, ce l'ho dalla parte del cortile, non ce l'ho dalla parte della strada, e per un po' c'è un pochettino coperto per me. Non calcava tutto, però poi la luce. ce l'ha alla porta intera adesso, prima era alla porta butti butti però. Eh sì, la porta intera sotto sì. Però per lo sotto ho cambiato. Sei più alto pure. Una settimana. Emanuele, tu c'è la palazzola che non finisce più, è un beaccio. Se la vuoi dire, guai. Sì, ma a me tra lei è difficile, Emanuele. Nel tetto è due, a meno che sbagliare l'elicottero. È un casino, lo so. Se vuoi accedere il scudetto, come ti faccio? Mica è pietà. Allora fatemi avviare l'elicottero. Me lo posso immaginare. Quanto è alto? 20 metri quel palazzo? 22, no? Quanti piani sono, Manuele? 8 piani, 3 pronto, 24, 27, circa 30 metri, 27, 28, dai. Sì, là compri tutti, a voglia. Una fai cosa, eh? No, io sto facendo col fischio. Antonio, Manuele, io, il cacchio. E su dove la metti, scusa? Attaccata alla camicia che è metallo. Bianco un attimino. Avanti. Adesso bianco. Ok, d'accordo, tu. Eh sì, ci vuole sì 40 metri di capo. E dove lo fai scendere? Ancora poi ti può chiudere, se mi sembra qualcosa di un altro, te lo taglia. E lì poi arrivi fino alla presa tua. Cosa devi fare, Manuel? Parlo di nulla di più. Quando ti chiedono, ehi caro, ehi, io non te la ricerizione nuova, mi dici tu. Ti fa lo spesso e ti fa, e dici, mio, vedi che funziona, mi lo vedi. Bella, funziona molto bene, non ti dà che te lo fai credere. Ma tu dici che è l'antenna della radio che c'è il tuo buco. Poi lui fa, non fa, non dice niente, nessuno lo accetta. Non devi dire mai nulla, io quando mi sono inviato i corsi, capito che era un maracchino. Non mi hanno mai detto niente, non mi hanno mai rotto la sala, perché mi sono fatto i cazzi miei. A te quella telefono. Capito Manuel, ma Manuel si è buttato d'ora. Quello che ti ha detto Antonio, hai capito Antonio? Beh, quello sì. È un'altra cosa. Dai che risposta vado bene, c'ho 7 gà. Pure merenda, chi sei cosa ti stai sbranando adesso? Oh, yeah. Ma non sei uscito il casino? Antonio ci sei. Ah, oggi avrei tre suo. Buonasera. Ciao Gabino. Ciao Tonino, buonasera. Di radio bene mi ascolti Gabi, quali ci pensi? Abbastanza, comprensibilissimo il segnale 9. Ok, grazie. Già va bene, faccio tu. Questo microfono per compresso già va bene. È positivo. Tu come mi ascolti, Tony? Compresso, basso, alto, di traverso, dritto, buh. Il mio risultato è no. Comunque, Santiago è 9.20, la rete 5 è perfetta. Amplificata. Positivo, di torta? No. Va bene così allora. La lasciamo così, la lasciamo così, la lasciamo così. Sì, sì, lasciala così che va bene. Tu, Manuel, non toccare più l'antenna, lasciala così, eh. Va bene così. Poi, a parte che ce la facciamo un po' di bistecca e cavalladondolo. Anche la mangiata a mezzodì, bravo, sì. Non è che dici che c'è un padrino e mangiamo a fare. Guarda, per me tutte le ore sono di Dio, quando si mangia. E che hai capito? Luigi Muro, hai capito? Tito si va, si rimessa che il cavallo a totolo, mangia, non dice nulla, non evita nessuno, tutto questo. E vabbè, poteva aver fame. Vuol dire che c'era fame, Tony. Cosa vuoi che ti dica? Vuol dire che c'era fame quando c'era appetito, non fame, appetito. La fame è una cosa, l'appetito è un'altra. Vuol dire che c'era appetito e... E allora è andato, si è accompagnato e si è fatto, e alla faccia di Carlo Bommari. È così, è così. La vita funziona così, Tonino, non è che bisogna prenderla male, vuol dire che oggi dovevi soffrire alla faccia sua. Casa mia, ha detto, mi sto facendo il calderone rosso. E Franco ha detto, mi fermi di togliere la magna, è già finito. E prima c'è. io c'ho col padrino e dico, boh, non è che esiste, ma ci sei già qualche cosa a padrino, le balle. Sì, lascialo là, lascia, se no fa di bicio. Ma il fatto che poi stai grassando, poi c'è, pesa troppo, ma non so che sempre magneti. Sì, non è male, no, il peso già cala. Il peso già cala. Lascialo fare. Ma non è, se continui così, tu vai nel Texas, aiuto. Ma perché mi innesca? Ecco, adesso no. Devo abbassare qua. Come metto, ma anche io un po' di più, grazie, mi metto innesco con la tua parlante di baracchino. Vedi, Vittorio, glielo sto parlando. Devi metterlo lontano. Io metto le cuffie e ce l'abbiglia luci. E disegna sulla tua parlante. Sì, va bene. Io ho fatto un po' di prove poco fa con Antonello Alessio, con un pompugno, e per la radio, perché era un po' complessa. Adesso cercando di sbrogliare questo capro, adesso viene macello di vino, ho sistemato tutto sopra, e tranne che tutto. E ci vedete? Adesso io ho messo le cuffie, così non innesca più. Ma noi, già ti sento bene. Allora ti capi, adesso non innesca più. No, adesso non innesca più, però ti avvicina un pochino al microfono, eh. Se ti avvicini un pochino siamo alla grande. Se ti avvicini un po' siamo dei signori. Dimmi se va bene così. Ehi, alla grande, anche un po' più vicino e sei alla grande. Allora va bene così, 1, 2, 3, prova di modulazione. Perfetto Tonino, tu capi nuda, da salù, che va bene così. A quanto sei dal microfono in distanza? Un 20 centimetri, dai. Sì, va bene così Tony. La tua modulazione è questa, lasciala così. Ok. Manuè, da te. Manuele, lascia la carne. E te, un attimo. Mulla, nuova scinga. Una scena, eh. Antonio, ci sei? Antonio ha fatto un po' di bianco, non mi piace uno. Gianni non è entrato, Franco lo si intende, giù in macchina. Dammi, canta niente e non entra in ciuro. Ehi Antone, io oggi mi ho fatto mezza giornata e poi ero tutta la sera a casa, ho fatto qualcosina fuori, ma poi mi sono messo in radio. E niente. Abbiamo cercato la regolazione migliore possibile, che mi dia, dai, tutto in positivo e la radio sia buona, però, con Antonello, però, adesso aspettiamo la conferma dagli altri. Tu mi hai detto che va bene, che è chiara, che non è compressa, quindi, uno è ok. Per me è perfetta così, lasciala così. Poi, l'altri, non lo so, io all'orecchio mio ti sento abbastanza bene, sono anche in cuffia adesso. Pare che ci dove fuori. Lo senti cos'etti. Bulgaria, buonasera Italia. È nato Santiago 9 addirittura. Io qua ce l'ho 9-10. Buonasera Bulgaria Italia. Al Mike Gavino Nord Sardegna, buonasera. Nisba, non mi intendi. Pazienza, vuol dire ci dà padestrazza. Anda vega. Manuele, ti sei liberato le barre? Sembra masticando. Come la mia radio? Buona, meglio di prima? Anda vega, dai. Dai, non mangiare, ma vai, poi mi dici, ehi dottore, che sono troppo grasso, sono malato al cuore, mi sento male, voglio dimagrire, non riesco a dimagrire, poi mi dice sono dimagrito, poi ti vedo e sei il doppio di quello che ti ho visto prima. Sì, ma un tipo di ginnastica, non come quella che pensi tu, sì, su. Niente, mi sono fatto un po' di pasta al forno, mi sono fatto, voglio farmi il clavufiore, fatta a fettine, poi bagnata nell'uovo, pane grattugiato e poi fritti. Ho fritto al forno, boh, vediamo. E siccome avevo voglia di pane, che sono mesi che non mangio pane, fette biscottate erano le balle piene, sono capitato perché ho preso anche olio di girasola che mi mancava e ho visto questo panino particolare che fanno le fast food rotondi, belli grossi, me ne ha giubilato due, Manuè. La sera mi faccio due panini bottini con un ketchup. Mancano due, perché è mancato? Io ne ho trovato uno qua, se non vuoi te lo do, non me ne faccio nulla, però c'ha 5 punte mi. E vale di no, devo frugare bene nell'armadio a muro. No, me ne mancano due. Non dopo a sé, ne può mancare uno, non lui. Allora, a me quella persona ha detto che io non gliel'ho mai dato, quindi io non ne ho. E c'era. Ho capito. Vabbè, con calma dopo apro l'armadio a muro, che beh, un casino che vedrete, tutto buttato così, per fare in fretta. Se lo cerco, se lo trovo, uno l'ho trovato, te lo do. L'ho spiegato delle buone tubaro, anche non nascio. Non lo so se c'è di quella radio, pure me la metto più. Sì, uno deve essere quella radio. E quella del coso che ti sto dicendo, che ha 5 punti, è quello che c'hai tu praticamente, senza. Se guardi bene sulla sinistra, c'ha l'ingresso di 5 punti, quello l'ho trovato. Buoni, quelli che gli vintaggi. Eia. Vabbè. Tu glielo mi dirai. Ah, c'ha ragione. Ti sto dicendo, devo andare a guardare, se sono un baracchino posso andare a guardare lì. Poi avevo una giovana. Quello guardo dopo cena, che sono con la faccia piena, sto bene, allora col calma lo guardo. Eia, avanti, capito. Guardaglielo, cazzo, ma cioè. Guardaglielo adesso, cazzo, che poi non dorme. Già dorme, già dorme. Edo già mangia, ma che c'è, ma che c'è, è mar di buco. Capitina, uno si vuole ma quello posa, dopo mangio io, poi glielo guardo. Uno ce l'ho già trovato, però se l'altro insieme a tutti i fili filetti è un casino, ma che magari dai. No, devo fare la pulizia, buttare un po' di roba, magari. Cioè, è troppo casino, troppo. Ho tutto modificato, capito, il mobile che ho io. Un ripiano l'ho sollevato di 9 cm perché non ci stava più niente, il microfono non ci stava. Allora adesso ci sta anche la spalla, le spalle 500 lì. E cosa ti è rimasto, Tony, di Sirio? Midland. Non so se questo è 49 canale, boh. Ho fatto una, non lo so, c'è la modifica, non lo so. E Saturneco venduto, dato. Insomma, dato Saturneco, Gaetita e porca miseria. E anche il coso, dato, però c'è la mia figlioccia Manuela. Il presidente, che ci va bene in radio. Il presidente quello è, quello stesso. Però Saturneco già era bello, già quello già ci va bene. E poi c'è quello CB800, l'SBA che non funziona. Boh, non è che me ne manca sempre ormai. PMR, ricevitore. È positivo. Positivo, positivo, positivo. Io stavo cercando il numero di coso di Gianni Capri 2. Ah, io ho cercato il numero di casa sua perché del cellulare non ce l'ho, me l'ha mai dato. Vabbè, già lo troverò prima o poi. Se vuoi su WhatsApp ti mando quello di casa sua. No, magari mi avvicino direttamente a casa sua io, perché intanto ero andato una volta, mi avvicino direttamente, perché lui ha quella linea Sommercamp che mi interessa a me. Ecco, andrà bene. Ma lui è finito di mangiare, perché si ti voce ditti che stavo sbattendomi. Attenzione che se si è più ci si può accogliere a voi, C'ho le mani ghiacciate, gà. E non che per freddo, gà. Ehi, vabbè, ma ho acceso in cucina, gà. Quel pezzo d'animale l'ha messo il contatore da 1,5 kW. Se accendo dentro e qua mi salta tutto, potevo andare fino a 150 metri a cancello attaccare il contatore, capito? E sono vita, manco l'undocca in occhi, magari. E io devo andare giù a attaccare il contatore. Quindi attacco uno, poi spengo uno e attacco l'altro, allora sì. E già mennato le noghe a fettendine in due. Che già se non toglie le ternite qua le chiamo i vigili, sono a capo di Zurica. E non so. Chi è che vuole entrare avanti? Non c'è nessuno, capito? Neanche io. Io non chiamo Manuele, sento. No, Manuele è sempre con Open. Vabbè, condizioni precarie, c'è l'antena attaccata al frigorifero dentro casa. È positivo, dai. E bene o male uno come esce può, Come esce uno va bene, vuol dire che le condizioni sono quelle, non si può fare niente. Vai, riprendi tu. Ti spiego, lui c'ha un palazzo di 8 piani. Allora, lui è al primo piano. Il tetto è fatto a piramide. Quindi ti ho detto tutto, in direbbe un'antenna, un casino. Lui ha trovato un punto per poterle ammettere, però non vuole